24 mattino. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli e bentrovati alla 24 mattino. Iniziamo con, come sempre, una chiacchierata con i nostri due ospiti, che questa mattina sono Angelo Maria Perrino, che ritroviamo, lo avevamo già avuto ospite lunedì, e Veronica Gentili del Fatto Quotidiano. Come potete immaginare, il primo argomento che quasi direi ci tocca, di cui ci tocca occuparci, è quello che è successo ieri in Senato, che peraltro è anche l'apertura di quasi tutti i giornali, perché per il secondo giorno consecutivo abbiamo assistito a uno spettacolo che io ieri ho definito triste e faccio lo stesso oggi, di un Senato, cioè una Camera alta tra l'altro del nostro Parlamento, per quanto si sia, lo sappiamo, in un bicameralismo perfetto, però comunque sarebbe tecnicamente la Camera alta, e già questo aggettivo dovrebbe dire qualcosa del nostro Parlamento, ma sentiamo qualche non voce, rumore dal Senato di ieri. Silenzio! Dopo la concluda, senatore Torrisi, concluda. Sono intervenuti 24 senatori, le repliche della relatrice e del rappresentante del governo. Per favore. Se mi autorizza, presidente. Senatore Calderoli, mi meraviglio di lei che è un vicepresidente. Presidente, viste le condizioni, se mi autorizza consegno il testo. Concluda. Ecco, questo era appunto il tentativo di un senatore di parlare, il tentativo del presidente del Senato Grasso di far parlare questo senatore sullo sfondo le ura di tutti gli altri. Assomiglia sicuramente più alla peggiore delle riunioni di condominio, che sono sicuramente, io sostengo da sempre che Pupi Avati dovrebbe fare un film sulle riunioni di condominio, non so, sulle risse da bar al lunedì dopo qualche episodio arbitrale conteso. E allora chiedo prima magari a Veronica Gentili che impressione le fa, se anche lei ancora si stupisce quando vede queste scene, o forse avendo seguendo anche forse la politica più di me non si stupisce più di tanto, perché purtroppo appunto il nostro Parlamento non è nuovo a questo tipo di discussione su temi tra l'altro serissimi come lo Ius Soli. Buongiorno Veronica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io stupirmi mezzo e mezzo, diremmo, nel senso che ormai sono abbastanza abituata a vedere queste scene, mi sorprende ogni volta, nel senso aumenta progressivamente il mio cinismo, per cui è abbastanza evidente il disinteresse che c'è alla base di questo e quanto anche tutto questo caos, rumore, anche questo, se vogliamo, abbassamento delle istituzioni, perché poi sono delle scene che veramente non sono degne di appartenere. Sono volati anche insulti, turpiloquio intendo, adesso non li ripetiamo perché è inutile, però ce ne sono stati. Anche su questo ricordiamo delle scene, vi ricordate l'anno scorso i senatori Verdignani di Ala e le scene che ci furono con alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, in cui fecero gesti in cui insomma evocavano la fellazio, quindi ne abbiamo già viste innumerevoli di queste scene. Però quello che sempre di più c'è è un mio cinismo anche nel credere a una reale passione politica dietro a questo. Cioè, io non credo che nessuno di loro ieri non fosse veramente disperato all'idea del fatto che venisse messo lo Ius Soli, che venisse modificato lo Ius Soli. Credo che faccia parte in qualche modo di una recita, di uno show che ormai viene portato avanti dai partiti, e che essendo questo un tema particolarmente succulento a livello di consenso elettorale, perché può essere un buon ricettacolo di potenziali xenofobie, di retoriche populiste, insomma era buono, si prestava bene allo show mediatico che è stato fatto. Ecco, Angelo Maria Perrino, buongiorno anche a te. Proprio lunedì parlavamo di questa del fatto che dopo il voto alle amministrative si entra cioè non si lascia la campagna elettorale, anzi probabilmente si prosegue. Veronica diceva adesso lo Ius Soli è proprio un tema da campagna elettorale, se così si sentono già i partiti in vista di possibili elezioni anticipate. Però anche a te vorrei chiedere appunto la reazione, così la prima reazione a queste immagini, a questi rumori, ripeto, non voci, e poi se sei d'accordo sul fatto che più che la sostanza, perché purtroppo mi piacerebbe chiedere a tutti quei senatori così agitati e scalmanati se veramente conoscevano nei dettagli la legge in discussione, magari anche quelle degli altri paesi europei, però appunto forse è più stato un grande show che, per quanto a me stupisca, forse in realtà era proprio voluto così. Cosa pensi, Angelo? Ma sì, direi proprio di sì, erano pronti i cartelli e quindi era tutto preordinato per fare notizia nei telegiornali, nulla di nuovo sotto il sole, siamo appunto in campagna elettorale, questo tema dello Ius Soli è un argomento che a sinistra viene considerato un positivo per il fatto che aggrega nuovi cittadini e magari nuovi votanti, e a destra viene usato per ribadire le proprie ragioni di destra, appunto. Quindi non ci vedo nulla di nuovo, neanche nell'incidente della ministra Fedeli, che mi sembra gonfiato anche quello. Gonfiatissimo, sì. Non mi pare che sia stata colpita. No, e appunto anche su quello poi ci sono le tipiche polemiche, no? Il leghista che dice no, ha fatto finta, voglio vedere il video, lei che si scusa, che dà un messaggio su Twitter, naturalmente facendo un po' la parte della vittima, anche quello insomma brutto episodio. Una buona campagna di comunicazione per due radicalismi che non hanno ragion d'essere, perché le questioni nelle società moderne si gestiscono con argomenti razionali, specie quando si sta facendo leggi. Certo, sentiamo per esempio cosa ha detto ieri Renzi, cercando faticosamente, come hanno fatto anche tanti altri, di arrivare alla sostanza e cercare di portare la discussione su quello che veramente sta scritto in questo provvedimento sullo Ius Soli. Sentiamo Renzi. Che si chiami Matteo o si chiami Miriam, Leila, Mohamed, ha diritto, se studia in Italia, se cresce con i valori italiani, a essere cittadino italiano. Allora, 18 anni. Allora è chiamato con il nome sbagliato, non è Ius Soli questo qui. Infatti lo chiamo Ius Culture. Vabbè, Renzi, ogni tanto a Renzi piace inventarsi un po' i suoi neologismi, per lui è uno Ius Culture, che poi tra l'altro non è che proprio l'abbia inventato lui. Oggi per esempio sul Corriere della Sera pagina 3 c'è una definizione, c'è anche uno schemino, anche sul Fatto Quotidiano Veronica dedicate un articolo spiegando proprio come funziona negli altri paesi europei. Ecco, a te chiedo quindi, secondo te è comunque, lasciamo un attimo il rumoreggiare del Senato sullo sfondo, è una proposta, che naturalmente per l'Italia è una novità, quindi sarebbe una buona legge così come è stata presentata ieri? Beh, io credo che sia una legge che deve assolutamente passare, nel senso che credo che sia una delle poche cose, per questo ora viene rivendicata, che è stata fatta prendendo una posizione, tra l'altro non una posizione chissà di che genere, cioè non la trovo rivoluzionaria come legge, però trovo che sia una legge che va in una direzione più netta, e quindi si decide di muoversi verso un versante di integrazione maggiore, meno teorico, più concreto anche nella praticità di coloro che trascorrono qui la loro esistenza, che poi oltre appunto alla nascita c'è, cioè, lo stare nei posti, il viverli. Quindi ritengo che sia una legge sensata e che soprattutto sia una delle poche leggi che il governo Renzi ha fatto a sinistra, essendo stato un governo di centrosinistra teoricamente, poi i fatti appunto hanno visto fare leggi molto diverse, però questa era una legge rimasta in sospeso e era, se vogliamo, uno dei fiori all'occhiello in questo senso, quindi credo che portarla a casa fosse importante, insomma era... Ripetiamo, veniamo da un governo, per quanto non lo ricordiamo più, questa è stata un'esperienza di centrosinistra, non c'era la Lega o il centrodestra al governo, quindi è una legge che poteva fare soltanto il Partito Democratico. E Angelo Maria, secondo te insomma questa legge che appunto mancava, c'era un vuoto legislativo su queste questioni, c'è ancora in questo momento in Italia, è comunque, oltre a essere un'eredità del governo Renzi, poi completamente abbracciata da quello Gentiloni, è una buona legge? E cosa prevedi, che verrà molto modificata o comunque insomma, nonostante questi incidenti, poi avrà un percorso abbastanza veloce? Ma a me sembra una legge di buon senso, una legge che prende atto di una situazione che esiste e elimina una anomalia. È molto temperata, non è un'introduzione secca del diritto come per esempio in altri paesi, Quello che forse andrebbe sottolineato, forse il momento, cioè una legge che era stata insabbiata, diciamo, da 2 anni e che è stata tirata fuori nel momento in cui ovviamente la gente è un po' esasperata da questa emergenza immigrazione e può concorrere a fare dell'Italia una sorta di paese di Bengodi per chi decide di venirci, per le persone e anche per chi gestisce questi flussi migratori. Quindi capisco l'obiezione di chi dice non era forse il momento, ma tutto questo, ripeto, rientra nelle logiche dell'opportunità politica che poi diventano magari opportunità elettorali. Certo. Sentiamo, dico anche all'ascoltatore che mi chiede ironicamente se mi sono inginocchiata quando ho lanciato l'audio di Renzi. No, non mi sono inginocchiata e né mi inginocchierò adesso che invece sentiamo un audio di Gianmarco Centinaio che si rivolge al presidente del Senato Grasso sempre ieri durante la... No, discussione non possiamo chiamarla discussione, durante la bagarre al Senato per lo Ius Soli. Sullo Ius Soli una battaglia che diventa anche fisica nel momento in cui vogliamo portare avanti la nostra idea, cioè che lo Ius Soli non deve essere approvato perché la legge va bene così com'è, e nel momento in cui chiediamo di intervenire in aula e la maggioranza non lascia parlare l'unica voce non in linea con tutto quello che sta portando avanti questo governo e questa maggioranza. Chiedevamo semplicemente che il provvedimento tornasse in commissione. Questo è il risultato grazie alla gestione di un presidente, il presidente Grasso, che se noi dicevamo in passato che sembrava l'arbitro Moreno, adesso mi ricorda molto di più un dittatore del Sud America o cose del genere. Arbitro Moreno, il famoso famigerato arbitro che non favorì l'Italia, o magari appunto sbagliando in malafede non favorì l'Italia, poi dittatore del Sud America e una opposizione fisica a una legge. Erano toni pacati quelli del senatore Centinaio al microfono fuori dal Senato, però direi che le affermazioni pacate non sono affatto, Veronica. No, no, non lo sono affatto, ma questo appunto rientra in quello che dicevamo un po' prima, nel senso ognuno è uscito e poi ha cercato di tenere fede alla performance rappresentata poc'anzi, per cui giustamente, come dicevi tu, poi anche dall'altro lato c'è stata un po' una messa in scena, per cui i feriti cosiddetti, la Fedeli e tutto il lato invece del Partito Democratico, le manifestazioni di solidarietà, assolutamente, poi è partito lo sproposito dall'altro lato. Quindi è diventata proprio in questo senso non più la bagarre reale che magari a volte può appunto sfuggire dai toni sensati e che il Presidente del Senato tenta di rimettere a posto, ma diventa proprio un gioco delle parti al quale Grasso ieri non aveva voglia di prestarsi, secondo me proprio per la ragione che dico, cioè in tante situazioni si vede quando si fatica a portare avanti un dibattito parlamentare perché si vuole scavalcare il Parlamento tout court imponendo qualcosa attraverso decreti, insomma. Ci sono situazioni in cui realmente viene, certo, no? Ostracizzato il punto di vista, non credo sia questo il caso. Certo, intanto ringrazio tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, in particolare all'ascoltatore che chiede quando torna Alessandro. Alessandro tornerà lunedì, quindi oggi è il mio ultimo giorno di 24 mattino, credo che questo ascoltatore sarà contento. Intanto però sentiamo l'aggiornamento sul traffico, poi cambiamo argomento perché ieri sono successe ovviamente anche molte altre cose. Mattino. Io voglio sapere qual è la data, il luogo e l'ora in cui avrei incontrato Matteo Salvini. Dal canto mio pubblicherò la mia agenda personale e se necessario porterò i testimoni che dimostreranno che io in quel momento non ero altrove, stavo incontrando qualcun altro. Se sarà dimostrato, e sarà dimostrato, che io in quell'ora, in quel luogo e in quel momento stavo facendo altro, allora credo che coerentemente il direttore Calabresi dovrà dimettersi. E se invece il direttore Calabresi non vorrà pubblicare queste informazioni che le sue ottime fonti sicuramente dovrebbero avere, allora vorrà dire che procederò alla querela oppure un gran giurì per difendere la mia onorabilità. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati, un gran giurì. mi sembra uscito da Law and Order questa definizione di Davide Casaleggio. La questione però è secondo me serissima, visto che siamo tutti giornalisti, secondo me è giusto commentare questa vicenda. Ieri, con un titolo che anche a me era sembrato sia nella prima riga che nella seconda, un titolo un po' inopportuno di Repubblica, nella prima riga c'era scritto Casaleggio incontra Salvini e nella seconda c'era scritto Di Maio due punti basta Unione Europea, e non era esattamente quello che aveva detto Di Maio. E soprattutto questa idea dell'incontro tra Casaleggio e Salvini, anche se a molti sembra verosimile, era appunto, Repubblica ammetteva che era una sorta di piccolo scoop, che non era una cosa che i due interessati avevano né annunciato né confermato, e che ieri Casaleggio, come avete sentito, ha nettamente smentito. Oggi su Repubblica, per chi trova interessante questo tema, secondo me lo è, perché comunque riguarda i rapporti che non sono mai facilissimi tra il giornalismo, specie quando vuole essere libero, e la politica, quindi secondo me è interessante. Oggi il direttore di Repubblica, Mario Calabresi, dice che la fonte da cui hanno avuto questa notizia, testuale più o meno, è una fonte che loro considerano molto attendibile e che quindi non hanno alcuna intenzione di smentire la notizia. Chiedo magari prima a Angelo Maria, che insomma è tanti anni che con il suo sito poi si occupa molto di politica, ne avrà sicuramente viste. Io ricordo in particolare l'episodio del 2015 con l'intercettazione che ancora non si sa vera o falsa sostanzialmente, perché l'inchiesta è ancora in corso, del governatore Crocetta, che fece moltissimo scalpore, ma chissà quanti altri episodi potremmo citare. Che idea ti sei fatto di questo piccolo scoop di Repubblica e della risposta di Casaleggio? Io penso che Calabresi è un po' in trappola, nel senso che da che facciamo giornalismo possiamo scrivere tutto, salvo dover poi evidenziare e circostanziare quel che abbiamo scritto. Allora, lui ha ritenuto di aprire il giornale con quella notizia. Dopodiché i due interlocutori, Casaleggio da una parte e Salvini dall'altra, hanno con veemenza smentito tutti e due, entrambi. Quindi non ci sono dubbi, e allora il povero Calabresi rimane in braghe di tela, noi diremmo in questi casi, se fossimo in riunione di redazione. Allora deve Calabresi dire qualcosa in più, dice di avere delle fonti buone, deve spiegare dove si svolta l'incontro e quando, come gli chiede Casaleggio, perché se no è una specie di ipse dixit, una sorta di petizione di principio, cioè è vero perché lo affermo io. Poi sai, sono il direttore di Repubblica e quindi posso dire quello che mi pare perché sono il direttore di Repubblica. Poi, è una tautologia, si dice in filosofia. Poi sai, ci sono questioni su cui la segretezza delle fonti è anche per proteggere queste fonti. Adesso, no, ma non deve rivelare la fonte, no, deve dire dove si è svolto l'incontro, a che ora e con quale ordine del giorno. Allora è un giornale serio, credibile, e candidiamo Calabresi al premio di giornalismo dell'anno. Diversamente è una fake news, mi spiace dire questo di un collega, tutti i giorni dobbiamo confrontarci col mercato delle notizie, ma le regole sono regole. Certo. Veronica, tu cosa pensi di questa vicenda, che ripeto, secondo me è giusto che ne parliamo, perché è sempre una questione, poi voi del Fatto, con insomma tutte le punzecchiature che fate, perché concepite il giornalismo anche proprio come cane da guardia della politica, come si dice in America, sicuramente ne avrete avuti di questi episodi, ma su questo in particolare che idea ti sei fatta? Secondo noi ci sono due livelli di lettura di questa faccenda. Sulla questione proprio della verità o bugia, secondo me in questi casi è sempre bene che parta una querela e che si vada in tribunale, perché così si risolvono i problemi. È lo stesso discorso di Maria Elena Boschi con Ferruccio De Bortoli, no? Nel momento in cui certo. è uscito il libro di De Bortoli, stessa storia. E la querela non è mai arrivata. Quando le querele non arrivano, di solito un motivo c'è, perché poi il giornalista che non è autorizzato a tirare fuori la fonte può certo, chiaramente può portare dei dettagli in più, può specificare in maniera che l'altro possa smentire e difendersi, ma nel momento in cui viene querelato è nella condizione di poter portare chiaramente il materiale che ha. Quindi io credo che nel momento in cui si vuole veramente dirimere la questione, uno va di querela e così il problema si risolve. Quello che è invece un aspetto, se vogliamo, più di natura politica è che è quello che secondo me poi ha fatto saltare ieri i nervi un po' i 5 Stelle, è stato il discorso che adesso c'è chiaramente una campagna di, vogliamo chiamarla, delegittimazione, non saprei, del Movimento 5 Stelle con l'elettorato di sinistra e post amministrative, alla quale, questa è la mia opinione invece a prescindere, i 5 Stelle in primis stanno collaborando, perché determinate dichiarazioni fatte ancora con le urne ancora calde, rispetto, insomma, non ripetiamo cose che sappiamo. Sì, loro continuano a dire sugli argomenti, noi siamo disposti, sui progetti siamo disposti a discutere con chiunque, non è questione di colore politico ma di progetti sul tavolo. Assolutamente, però è la contingenza tra alcune dichiarazioni legate sempre a un argomento, no? Abbiamo parlato nella prima parte, così tutto assume un filo anche, no? Tutto si tiene, sì. Tra lo Ius Soli e poi dall'altro lato le dichiarazioni fatte da Grillo, la Raggi che appunto parla dell'accoglienza a Roma come estremamente problematica, i numeri saturi, succede tutto questo e quindi si parla di un'assonanza e di una vicinanza con la Lega, e quel giorno, il giorno dopo, Repubblica titola di un incontro segreto, come se in realtà ci fossero dietro già, no? Dei certo. piani. Insomma, vedremo, stiamo in attesa di queste querele. Grazie tante a Angelo Maria Perrino, a Veronica Gentili, ai quali auguro un buon venerdì e un buon fine settimana. Noi ci risentiamo subito dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mattino. Ancora buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli, benvenuti, bentornati a 24 Mattino e benvenuti alla rassegna stampa dei quotidiani italiani. Approfitto per ringraziare tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp, e finalmente, perché sono 4 giorni che Lorenzo Nespoli mi dice di dirlo, mi ricordo di dire che siamo anche in diretta su Facebook. Spero di essere abbastanza in ordine, credo di avere il golf al contrario, ma capita, perché si mette e si toglie per via dell'aria condizionata. Detto questo, appunto, grazie ancora agli ascoltatori e vediamo le prime pagine dei giornali. Sole 24 Ore ha un titolo legato a qualcosa che è successo ieri sempre nelle istituzioni, forse che più, insomma, sicuramente più onorevole di quello di cui abbiamo parlato nella prima parte, cioè la rissa al Senato sullo Ius Soli. Infatti ieri al Senato si è discusso anche della manovra, la cosiddetta manovrina correttiva da 3,4 miliardi che si è resa necessaria dopo gli appunti dell'Unione Europea quando era stata presentata la prima manovra. Il Sole 24 Ore: sia la manovra da 3,4 miliardi è definitiva la stretta sull'IVA. Poi, e Mauro qui sicuramente ci illuminerà, giro di vite sullo split payment. E poi ci sono anche i nuovi voucher, perché sapete che i voucher, come erano stati previsti inizialmente dal Jobs Act, sono stati eliminati per scongiurare un referendum per il quale la CGIL aveva raccolto più di 3 milioni di firme. E poi è prevista una tassa su Airbnb, quella sito che fa da intermediario tra chi affitta la sua casa, privati, e persone che vogliono soprattutto avere degli affitti brevi. In prima pagina anche questa sentenza del Consiglio di Stato, che è il secondo grado della magistratura amministrativa, quindi quando il TAR emette una sentenza si può fare ricorso al Consiglio di Stato. Eccolo qua, c'è stato il ricorso su quella sentenza che sicuramente era sembrata molto strana a tanti, cioè che aveva rimosso 5 direttori dai rispettivi musei, e ora il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR E quindi i direttori dei musei di Mantova, Modena, Taranto e Reggio Calabria tornano al loro posto. Con il Sole 24 Ore di oggi anche Il, che è uno dei nostri due mensili, l'altro è How to Spend It, ogni due settimane ne trovate uno in edicola al venerdì, e all'ascoltatore Pierluigi fedelissimo che mi chiede qualche illuminazione su Il di questo mese, si chiama Summer Fiction Issue, e in tradizione molto anglosassone, siccome appunto ci stiamo avvicinando all'estate, al tempo in cui magari abbiamo più facilità a leggere o a rilassarci leggendo, è un numero dove la parte principale è dedicata a racconti di molti scrittori, tra i quali Alessandro Piperno, Sandro Veronesi, ma anche Teresa Ciabatti e Paolo Cognetti, che sono candidati al Premio Strega. Il Corriere della Sera: Lega Governo rissa al Senato, quindi il titolo è quello sulla bagarre di ieri. Poi vi segnalo la fotonotizia, che è dedicata al fatto di cronaca sportivo, cioè il portiere del Milan, giovanissimo, appena diciottenne, considerato un grandissimo talento, che non rinnoverà il contratto, si è affidato al procuratore più, come potremmo dire, al mastino dei procuratori, Raiola, che è quello anche di Ibrahimovic, per dire, quello che offriva al Milan, parecchi milioni, non è bastato a Raiola, soprattutto probabilmente, che ha condotto le negoziazioni, e l'articolo del Corriere della Sera è la scelta di Gigio sconfitta per tutti, molta delusione infatti tra i tifosi milanisti. La Repubblica: lo Ius Soli, la destra scatena il caos. La fotonotizia è legata al fatto di cronaca orribile, l'incendio che è scoppiato nel grattacielo di Londra nella notte tra martedì e mercoledì. Ieri tutti i giornali avevano fotonotizie su questo, oggi un po' meno. La Repubblica ha pubblicato in prima pagina una fotografia di un muro in cui le persone possono lasciare dei messaggi per le vittime del grattacielo. Sapete che purtroppo il bilancio verrà aggiornato quasi sicuramente oggi. I morti accertati, nel senso di cadaveri recuperati, sono una ventina. Si stima che nel grattacielo vivessero 500 persone, purtroppo l'incendio si è scatenato di notte, quindi molti erano probabilmente a casa. Il Scotland Yard ieri ha detto speriamo che siano meno di 100, ma purtroppo è tutto da vedere, oggi probabilmente si farà un bilancio più preciso. E a questo punto pare quasi certo che i due ragazzi veneti che erano laureati in architettura erano a Londra perché avevano trovato un primo lavoro lì in due studi di architettura della città, e quasi certamente non sono riusciti a scappare in tempo. Per chi non avesse sentito la prima parte della rassegna di 24 Mattino, abbiamo accennato al titolo di ieri dove Repubblica, citando una sua fonte, parlava di un incontro tra Casaleggio e Matteo Salvini. Entrambi hanno smentito ieri che ci sia stato questo incontro. Casaleggio addirittura minaccia querele contro il direttore della Repubblica Mario Calabresi, che oggi in questo trafiletto in prima pagina sostiene che no, che l'incontro c'è stato, perché a loro lo ha detto una fonte sicura. La Stampa: clima, Bloomberg sfida Trump. La Stampa quindi prosegue in questa scelta che ho segnalato anche nei giorni scorsi, che secondo me è uno spunto di riflessione interessante per vedere come stanno cambiando i quotidiani, sulla spinta naturalmente della rivoluzione digitale. La Stampa ogni tanto, questa settimana è la seconda volta che lo fa, sceglie dei titoli non strettamente legati alla cronaca del giorno precedente. In questo caso, o meglio, lo sono, però non sono l'argomento principale, quello che tutti abbiamo già sicuramente sentito ai telegiornali o visto su internet. Questo titolo, clima, Bloomberg sfida Trump, l'ex sindaco di New York, nonché magnate dei mass media, ieri era a Torino e ha parlato di tutto, ma soprattutto del clima, criticando duramente le scelte su questo tema, già annunciate, quelle che forse verranno in futuro, dell'attuale presidente Donald Trump. Ci fermiamo però un attimo per una breve pausa, ci risentiamo tra qualche minuto. 24 mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci ritroviamo, eravamo sulle prime pagine dei giornali e siamo arrivati alla stampa. Dalla stampa, oltre al titolo sulla visita dell'ex sindaco di New York Michael Bloomberg a Torino, vi segnalo due notizie, due racconti sostanzialmente, perché che partono da due notizie e sono anche curiose. La prima è che la nave di Teseo, che è la casa editrice fondata da Elisabetta Sgarbi, ex numero uno della Bompiani, che poi ha lasciato la Bompiani più di un anno fa per fondare appunto la sua casa editrice, la nave di Teseo, molto ambiziosa diciamo culturalmente fin dal nome. Sapete che la nave di Teseo è una specie di paradosso filosofico: Teseo è l'eroe greco, si imbarca sulla sua nave per un viaggio lunghissimo, piano piano vengono sostituiti tutti i pezzi, alla fine del viaggio pezzo per pezzo la nave è stata completamente sostituita, è ancora lei perché ha la forma originale o è diversa perché tutti i pezzi sono diversi? Ecco, questo è quello che c'è dietro, figuriamoci appunto le ambizioni culturali di questa casa editrice, che adesso si è comprata la Baldini Castoldi, che era in casa editrice in crisi da tempo, anche se in passato aveva conosciuto fasti incredibili, perché la Baldini Castoldi pubblicò con grandissima fortuna E va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, che resta uno dei libri più venduti in Italia dal secondo dopoguerra. E quindi Mario Baudino, che da tantissimi anni si occupa di cultura sulla stampa, racconta questa acquisizione. L'altra notizia che vi dicevo, sempre così con uno spunto di cronaca, che ieri si è saputo che J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, guadagna più di Cristiano Ronaldo, che sappiamo ha uno stipendio ragguardevole, e quindi lo scorso anno le opere della Rowling hanno generato più guadagni delle finte, così sintetizza Alberto Infelice sulla stampa, di Ronaldo. Il Messaggero: caso migranti, botte al Senato. Poi c'è una fotonotizia simile a quella di Repubblica, con questo muro sul quale molti londinesi hanno voluto lasciare un messaggio di solidarietà alle vittime del grattacielo che è andato in fumo nella notte tra martedì, cioè dove è scoppiato un incendio nella notte tra martedì e mercoledì, in realtà addirittura sta ancora fumando, quindi è un incendio come purtroppo immaginabile in un edificio di quelle dimensioni, spegnerlo è difficilissimo, e appunto ancora oggi, che è venerdì, se guardate le dirette su internet, ancora c'è del fumo che sale. La cosa che mi ha fatto più impressione, naturalmente sono moltissimi tentativi di raccontare questa vicenda, è che oltre alla prima telefonata dei due ragazzi italiani di cui avevamo già parlato ieri, ce n'è un'altra, una seconda, di Gloria in particolare, che ha lasciato un messaggio ai suoi genitori da cui emerge che era perfettamente consapevole di non avere scampo, perché il virgolettato citato dal Messaggero è: mamma e papà addio, sto per andare in cielo, mi sto rendendo conto che sto morendo. E effettivamente è una non so, sono parole che fanno venire i brividi, perché immaginare una ragazza così giovane, 26 anni, piena di sogni, di speranze, era andata a Londra per quello, costretta a lucidamente sapere che ha i minuti contati, e ha il coraggio di dirlo a suo padre, a sua madre, anche ringraziandoli tra l'altro. Il giornale Italia-Africa, cittadinanza facile, quindi il riferimento è alla battaglia di ieri che abbiamo visto in Senato. La fotonotizia però è dedicata a questo fatto incredibile che è successo a Palermo. C'era un candidato sindaco a Palermo, perché Palermo era uno dei comuni, dei 1.004 comuni che domenica sono andati a votare per appunto eleggere il sindaco, rinnovare le giunte comunali. Si chiama Ismaele Lavaldera e ha preso più di 7.000 voti, che per carità è soltanto circa credo il 2,5%, però comunque ha preso 7.000 persone e lo hanno votato, ma in realtà si è scoperto che non stava veramente aspirando alla poltrona di sindaco, ma stava girando un docufilm, e tra i suoi sostenitori, perché era come una specie di outsider, si presentava come un outsider, c'erano stati, e infatti la foto pubblicata dal giornale lo dimostra, anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che ieri, spiegando di essere stati completamente ignari di questa vera identità di Ismaele Lavardera hanno detto che lo denunceranno. Il Avvenire, il no più violento, e il riferimento è a quello che è successo ieri in Parlamento, e poi una notizia che in un certo senso è una non notizia. La notizia è questa: armi italiane usate in Yemen, altre in arrivo. Sì, appunto c'è questa certificazione che alcune delle armi usate in Yemen, dove c'è una guerra civile che non si ferma, sono italiane. Dico che è una non notizia perché qualche settimana fa abbiamo visto che l'Italia è il paese che dove nel 2016 è aumentato di più l'export di armi, in proporzione naturalmente è un export minore di quello di altri paesi, però quindi è ovvio che poi queste armi da qualche parte vengano usate. Ma ora do la parola a Mauro Meazza che ci racconta qualcosa di più del Sole 24 Ore. Sono stata molto stringata, a parte la prima pagina e la segnalazione che oggi c'è il, non ho svelato altre sorprese sul Sole di oggi, che invece è pieno di sorprese. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giulia, e dici bene perché oggi numero è molto importante. Innanzitutto naturalmente perché parliamo di moda uomo, anzi ne parla Giulia Crivelli. No, naturalmente scherzo ma non troppo, perché è vero che sul Sole 24 Ore di oggi c'è Moda 24, essendo venerdì, ed è proprio dedicato alla moda uomo. Allora, in attesa che tu mi possa dare dei consigli di persona, però è importante, come hai già ricordato in altre mattine, il settore, ci sono molti buyer, cioè compratori interessati, quindi questo sembra un buon segnale sia per Pitti che per Milano. Dico bene, riassumo bene il contenuto del tuo articolo? Riassumi Giulia. Benissimo, io sono una grande sostenitrice, sono a volte molto critica sull'Italia, ma grande sostenitrice di questo comparto e di come Milano è riuscita a tornare centrale per la moda uomo, soprattutto per voi uomini. Molto bene, allora guarda, leggerò poi naturalmente con molta attenzione, e intanto però ti segnalo che insomma ci sono state delle cosucce abbastanza importanti. Il sì definitivo alla manovrina, te la ricordi la manovrina, è diventata una manovrona, perché abbiamo contato mi pare 134 articoli complessivamente, quindi è tutta da scoprire, tutta da gustare, e infatti oggi cominciamo con una serie di approfondimenti sia nelle prime pagine sia in quelle di norme e tributi. E poi da lunedì faremo delle guide specificamente dedicate alla manovrina, quindi tema per tema lo segnaliamo, qui segna in agenda da lunedì, poi lo diciamo anche al debosciatellum che ancora sta in vacanza, beato lui. Poi perché giornata importante? Giornata importante perché domani, tra l'altro, festeggiamo i 15 anni di Plus, la nostra settimana del risparmio, quindi stiamo preparandoci a questo numero che troverete domani con il Sole 24 Ore. E poi giornata importante perché potrebbe esserci un intervento governativo per le banche venete. Hai già avuto modo di leggere avidamente Finanza Mercati? Sì, perché sai che questa vicenda mi così non sono una correntista di una di queste due banche, però davvero la situazione in cui sono i correntisti, mentre i vertici, che secondo molti hanno causato il disastro, non sembrano passarsela particolarmente male, mi colpisce molto. E allora oggi vedremo se allora si risolve un po' la cosa, perché c'è un doppio filone, come riassumiamo appunto nelle pagine di Finanza. Da una parte la ricerca di volontari per indicare il sistema delle banche che sono disponibili a intervenire ulteriormente con capitali cosiddetti privati, cioè delle banche medesime, e poi forse anche un intervento governativo per sospendere il rimborso di un bond che è di imminente scadenza. Ma tutti i particolari naturalmente come sempre da leggere avidamente su Finanza e Mercati, e poi andando più oltre nello sfoglio del nostro giornale di oggi naturalmente le pagine di norme e tributi. E allora un attimo di concentrazione Giulia, perché qui Radio Fisco abbiamo il dato del TFR di maggio. Non ti preoccupare, è una cosa che i nostri amici professionisti capiscono molto bene. Nelle pagine Norme e Tributi oggi c'è il dato del TFR di maggio. Sappi che è importante. Ma poi importante anche, ti segnalo, proseguiamo nell'analisi del disegno di legge sul processo penale, che è diventato legge. Ieri ne abbiamo parlato. Esattamente, e anche oggi ci ritorniamo perché proseguiamo nell'analisi dei contenuti. Come sai, è un procedimento, un provvedimento, pardon, un un provvedimento particolarmente complesso, quindi i suoi effetti andranno analizzati, diciamo, comma per comma, ed è quello che oggi facciamo con alcuni passaggi di questo, di questa legge nuova, nelle pagine sempre di Nuovi Attributi. E poi ti segnalo qualcosina da non trascurare, cara Giulia. Allora, c'è stato un licenziamento per troppo uso di internet. Ho visto, mi fa un po', anche questa è una cosa un po' inquietante, devo stare attenta. No, va bene, adesso poi dipende anche dal lavoro che si fa, ovviamente, perché a noi serve, sì. Diciamo che per noi è uno strumento di lavoro, però non per tutti, evidentemente internet può essere uno strumento di lavoro. Allora, c'è stato un licenziamento, una sentenza di tribunale che ha detto sì, è corretta questa cosa, perché l'uso di internet è stato giudicato eccessivo. Peraltro, va detto, il lavoratore non era stato controllato su che cosa andava a visitare in internet, ma soltanto proprio sulla quantità di dati trasferiti, quindi non è stata assolutamente messa in discussione la sua navigazione, i contenuti della sua navigazione, soltanto proprio il fatto che ne facesse ampio uso. Poi tutto anche voi, vero, vi occupate della vicenda dei direttori dei musei? Mo certamente, ma guarda, i direttori dei musei, come sai, controordine direttori, tornate al vostro posto, già ne parlavi prima, perché il Consiglio di Stato, appunto, secondo grado della giustizia amministrativa, ha detto tornate lì. Peraltro ti segnalo che nella capiente manovrina, di cui sopra, ecco, nella capiente manovrina c'è comunque una norma di correzione per quel vizio che sarebbe emerso appunto in primo grado, di non aver derogato, insomma, sai che lì il problema era questo, non era stato detto esplicitamente che si potevano prendere dei non cittadini italiani. Allora adesso il governo rimedia alla cosa inserendo una disposizione apposita nella manovrina che, come dicevamo appunto, è diventata manovrona e contiene tra le tante cose persino questa. Ma è tutto quanto e molto altro naturalmente sul Sole 24 Ore di oggi. E allora a questo punto un buon fine settimana a tutti gli ascoltatori, un buon fine settimana al Debosciatellum, che credo torni lunedì. Sì, torna lunedì. Ah, benissimo, allora lo accoglieremo come si conviene. Buon fine settimana anche a chi ti sta aiutando in regia e all'assistenza, e per tutti quanti naturalmente, come sempre, troffi! Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno mandato e stanno mandando messaggi al 349-238-6666, SMS o WhatsApp. Vi giuro, potete vederlo anche se vi collegate su Facebook, perché siamo in diretta a Facebook. Non sto mangiando una cicca e neanche succhiando una caramella. Forse qualche rumore strano era perché ogni tanto bevo un sorso d'acqua. Tutto qua. Andiamo sulle pagine interne dei giornali. Vi segnalo dal Corriere della Sera un articolo che sembra quasi un po' una spy story, ma sono cose che stanno succedendo veramente. Ce lo racconta Guido Santevecchi, corrispondente del Corriere della Sera dalla Cina. Wu e gli altri miliardari svaniti tra i giochi di potere a Pechino. E ci sono in effetti questi, ma purtroppo si può fare il parallelo anche con quello che è successo in Russia, grandissimi personaggi dell'economia o appunto miliardari, che quindi a un certo punto tutti partecipano a forum, insomma ne conosciamo volendo il nome e le gesta, e poi spariscono. E i due casi per esempio sono quello di Xiao Jianhua, 32esimo uomo più ricco della Cina e finanziere, una fortuna stimata di 6 miliardi di dollari, è scomparso davanti al Four Seasons di Hong Kong in gennaio, non se ne sa più niente. Invece la foto principale è quella del presidente dell'Anbang Insurance Group, si chiama Wu Xiaohui. Ha partecipato al China Development Forum di Pechino del marzo scorso ed è stato arrestato venerdì senza comunicazione ufficiale da parte delle autorità, quindi non si sa nemmeno dove sia stato, in quale prigione sia in questo momento, né quali siano le accuse. Questo succede in Cina. Anche questo. Poi vi segnalo una pagina tutta dedicata ai vaccini, a pagina 21. Da una parte la parte principale di Margherita De Bach è un'operazione interessante. È stata ha monitorato le chiamate si è fatta raccontare ed è andata anche lì di persona le chiamate che sono arrivate al numero verde istituito per i genitori che hanno bisogno di chiarimenti sulla vicenda dei vaccini obbligatori. Come sapete, un decreto legge prescrive che per iscrivere i bambini a scuola bisogna dimostrare di aver fatto questi 12 vaccini. E per esempio ci sono tantissime domande, quella sulla quale il Corriere sceglie di titolare è: mio figlio è nato nel 2016, quali vaccini deve fare? Un giorno al numero verde preso d'assalto dai genitori. Nella parte restante della pagina c'è però una notizia. Ieri il Rino Rappuoli, che è un microbiologo italiano, in questo momento presidente chief scientist della GlaxoSmithKline, una delle componenti di Big Pharma, come vengono chiamate, e ha ricevuto l'European Inventor Award per i suoi lavori proprio sui vaccini. Con i suoi collaboratori ha rivoluzionato il processo di sviluppo delle vaccinazioni. Naturalmente una domanda sui no-vax, cioè sulle persone che sono un po' a prioristicamente contrarie ai vaccini, questo si intende con questa locuzione, dice: non mi scoraggio, alla fine la ragione prevale sempre. E poi una bellissima intervista, un incontro di Marco Del Corona con una scrittrice giapponese, Natsuo Kirino, che 20 anni fa aveva avuto molto successo anche in Italia con un libro chiamato Le quattro casalinghe di Tokyo, e ora fa un po' il punto sul Giappone, questo paese secondo me molto affascinante, ma anche pieno di contraddizioni, come siamo tutti e come sono tutti i paesi. E quindi il titolo dell'intervista è: con un nome da uomo, perché in giapponese il suo è un nome da uomo, scrivo storie nere, così avverto le donne, il Giappone ci tradisce. E poi una bellissima intervista, anche in questo caso, di Andrea Lafranchi a Francesco Guccini, il cantautore che ha 77 anni, credo che sia una delle poche persone che ha fatto palesemente un passo indietro. Anni fa ha deciso basta concerti, perché ha detto non ho più l'età, aveva sostituito i concerti con degli incontri dove raccontava, dove leggeva alcuni dei suoi racconti, perché ha scritto anche parecchi libri, ma ora dice: sono stanco, non suono da tempo nemmeno a casa, ho proprio bisogno di riposare. Quindi un autopensionamento. A volte gli artisti non lo fanno, a me mi fa tenerezza, ma lo trovo molto umano una persona che dica: rinuncio definitivamente ai riflettori perché in questa fase della mia vita voglio che la mia vita sia interamente privata. Vi dicevo sulla stampa, se volete, tutta la vicenda della Baldini Castoldi, che è una casa editrice storica perché fu fondata alla fine dell'Ottocento, poi rilevata da Alessandro Dalai all'inizio del nuovo millennio. Ebbe queste grandi fortune azzeccando bestseller come Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, Jack Frusciante uscito dal gruppo, e naturalmente Io uccido di Giorgio Faletti. Era entrata un po' in crisi, ora è stata rilevata dalla nave di Teseo, che è la sua proprietaria, presidente, Elisabetta Sgarbi, sorella di Vittorio Sgarbi, dice: rilanceremo la Baldini Castoldi. Moltissime altre cose di cronaca che mi ero tenuta da parte, ma non c'è tanto tempo. Forse sul giornale mi ha fatto effetto questa pagina intera dedicata a Fazio, che non soltanto sapete che Fabio Fazio aveva protestato sulla questione dei tetti ai compensi, che valevano in teoria sulla carta anche per i dipendenti della RAI, perché valgono per tutti i dipendenti dello Stato, poi ci si è corretti. Questi personaggi come Fazio vengono presentati come artisti e quindi salta questo tetto. Ora addirittura Fazio, dopo una vita credo passata su Rai 3, passerà a Rai 1, e quindi Laura Rio racconta questo e alle altre novità del palinsesto Rai che sono stati presentati: che tempo per Fazio, trasloca su Rai 1 e non perde il cachet. Ultimissima segnalazione, siccome anche qui a Milano sta per iniziare lo sciopero che creerà tantissimi disagi, Sulla Verità, pagina 8, dall'inizio dell'anno siamo già a 213 scioperi e non siamo neanche alla metà dell'anno. Era l'ultima notizia per oggi, un grazie a Paolo Corleoni in regia, a Lorenzo Nespoli in redazione, grazie a tutti voi. Era il mio ultimo giorno a 24 mattino, lunedì torna Alessandro, noi ci sentiamo ancora domani mattina per la rassegna stampa internazionale, domenica per quella italiana e poi chissà, prossimamente.